Good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Buonasera a tutte e benvenute da Deborah e Caterina alla nostra 70ª trasmissione. Beh, dovremmo anche dire buon anno, perché questa trasmissione, che oggi è in onda in diretta il 19 di dicembre, andrà in replica il 2 di gennaio, in modo che le sparute ma determinate donne del coordinamento lesbiche romane possano godere di un po' di meritato o immeritato riposo. Allora, che sia dicembre o gennaio, buon 2001 a tutte, augurandovi e augurandoci che sia un anno senza guerre, né personali né politiche, né con le armi né senza. Speriamo però che vi siano delle battaglie che non prevedano morti, se non di pregiudizi, che siano delle battaglie che risveglino le nostre coscienze e la nostra etica personale e politica. Speriamo vi siano tante lotte, quindi, nel 2001, e che siano lotte collettive, perché di pseudoeroi e di pseudoeroine che predicano in un deserto di indifferenza proprio non ne abbiamo bisogno. In quest'epoca di riflusso abbiamo invece una disperata necessità di ritrovare il senso della collettività e della condivisione di intenti, perché, come dice sempre la nostra compagna Lucilla, da sola ognuna di noi è stupida. Ed io aggiungo che da sole il massimo che possiamo ottenere è quel margine di sopravvivenza che rende la nostra vita e quella del mondo intero poco più che sopportabile. Oggi parleremo di libri di testo, ma non in merito al revisionismo storico di stampo fascista. Questo gioco lo lasciamo a Storace, che ha sicuramente più titoli di noi per parlare di fascismo. No, parleremo di libri adottati nelle scuole elementari e quindi parleremo di quanto sessismo, razzismo e disprezzo per le differenze si tenti di inculcare nelle nostre teste fin da bambine. Anzi, più che un tentativo, assistiamo fin dalla tenera età alla vera e propria applicazione di una precisa strategia volta a forgiare le menti alla cultura della negazione. Sicuramente dei passi avanti sono stati fatti. Basta confrontare un libro degli anni 70 con uno dei nostri giorni, ma il cammino è ancora lungo per scardinare una cultura secolare fatta di patriarcato e occidentalismo. La riflessione che vogliamo stimolare in noi e voi è che scandalizzarsi per gli stupri, per i linciaggi e le torture subite dagli extracomunitari, per le manifestazioni di neonazismo alla Haider o per lo sfruttamento occidentale del terzo mondo è assolutamente ipocrita se non si riesce a contestualizzare quanto avviene nella cultura della negazione delle differenze, che è presente ovunque, nella pubblicità, nei programmi televisivi più innocui, nella stampa e nei libri di testo, appunto, fin dalle scuole elementari. Alla fin fine è troppo facile chiamare uno stupratore animale, un nazi skin deficiente o i padroni della Nike imperialisti. Sono violenti, spietati o capitalisti, ma non fanno altro che applicare all'eccesso quanto viene inculcato a tutti e a tutte. Ha ragione di esistere solo chi è maschio, bianco e ricco. Il mondo è fatto apposta per lui, è esclusivamente a sua misura, e tutto il resto, in primo luogo le donne, esiste solo per accontentare i suoi desideri, legittimi, illegittimi o pazzeschi che siano. Di sottofondo di Nina Simone, adesso ci ascoltiamo Elisa Niolo, credo che si dica così, con il brano Mam Terry, ed è una cantante che viene dal Camerun. Ciao a tutte, io sono Caterina e volevo dirvi che, essendo una lesbica insegnante, allo stato delle cose non posso proprio più esimermi dal dire ciò che penso rispetto a tutta questa diatriba sulla scuola. Tra rinnovo contrattuale, equiparazione tra scuola pubblica e scuola privata, bonus per gli studenti, eliminazione del tetto massimo di alunni frequentanti nelle classi dove c'è la presenza del portatore di handicap, autonomia scolastica, riordino dei cicli, l'introduzione delle cosiddette figure di sistema, certo, l'uscita di Storace sui libri di testo è stata proprio, come dire, la ciliegina sulla torta. Mi rendo conto che ognuno di questi argomenti meriterebbe un articolo, ma forse questa trasmissione potrebbe non essere la sede adatta. Per quel che mi riguarda, essendo lesbica ed insegnante, mi preme, in questo contesto, prendere in esame solo un aspetto, quello dei libri di testo. Ricordiamo tutte la polemica recente scatenata dal presidente della regione Lazio Storace, il quale ha enunciato la volontà di effettuare una rilettura critica dei libri di testo che a suo dire sono troppo di sinistra. Nelle sue intenzioni ciò darebbe luogo alla riscrittura di alcuni avvenimenti tramite un'apposita commissione formata, badate bene, non da storici, bensì da consiglieri regionali chiaramente a maggioranza di destra. Forse Storace dimentica che altri in Europa hanno già tentato ciò e tutto è stato definito come revisionismo storico, come diceva Deborah anche prima, ma sono stati smentiti dalla realtà dei fatti. Negli scorsi anni alcuni storici di destra hanno tentato di rivedere, a loro uso e consumo chiaramente, addirittura quanto era accaduto nei campi di sterminio nazisti, affermando che erano stati una invenzione degli alleati. Invece i campi di sterminio nazisti devono essere considerati qualcosa di assolutamente folle che ha macchiato l'umanità di atrocità indicibili. Quei fatti atroci non possono essere letti con valenze diverse a seconda di come si è schierati politicamente. Non possono essere giudicati deprecabili se si è di sinistra e accettabili se si è di destra. A Storace diciamo che la storia non si riscrive, ma anzi, che l'onestà intellettuale della rilettura critica dovrebbe portare chiunque a riconoscere l'efferatezza di certe manifestazioni. Forse è per tutto questo che sono stata contenta di vedere i giovani dei centri sociali che strillavano la loro disapprovazione al nazista austriaco vestito da Babbo Natale e che ha consegnato al Papa l'albero della bontà. Forse è perché, come la città di Roma, non dimentico. Non posso dimenticare i racconti di mio padre, rinchiuso in un campo di concentramento, o le sue azioni da partigiano. Chissà. Forse è per tutto questo che sono portata a pensare che Pannella ha perso il lume della ragione, ammesso che l'abbia mai avuto, quando cita Voltaire per difendere Heider. Non condivido le tue idee, ma sarei pronto a dare la vita per permetterti di continuare ad esporle, diceva Voltaire. Possibile che Pannella non si renda conto che quelle idee per le quali sarebbe pronto a dare la vita possono trasformarsi in azioni? E di quali azioni si parla? Ne sono pieni i libri di storia, che ne dica Storace. Ma torniamo alla scuola e ai libri di testo. Quando si parla di scuola, di libri di testo, di storia, chissà perché si pensa sempre ai ragazzi. Si prende in esame la scuola media o le superiori. Ma c'è anche la scuola elementare, anche se per il ministro De Mauro forse ci sarà ancora per poco la scuola elementare, appunto, dove si danno le cosiddette basi. Mi sono andata a vedere alcuni libri di testo di quella fascia d'età e ho preso in esame alcuni racconti che ho trovato su un libro di terza. Premettendo che ogni storia, vuoi raccontata a mezzo cinematografico, letterario o orale, ha una sua struttura narrativa fissa, che si esplicita sempre in forma uguale ed è identificabile in 6 punti. Il primo, la situazione iniziale, dove si narra il contesto, lo stato delle cose, insomma l'inizio della storia appunto. Il secondo punto è quello che riguarda i personaggi, dove si elencano appunto gli interpreti di quell'evento. Il terzo è il protagonista, cioè il personaggio principale del quale si narra la storia. Poi c'è l'antagonista, solitamente identificabile con il cattivo che si oppone all'antagonista. Poi c'è chiaramente, come in tutte le storie, l'eroe che risolve la situazione critica e la soluzione finale che disegna e racconta la conclusione della vicenda. Generalmente se ne possono delineare schematizzando le 2 tipologie: la soluzione finale drammatica e la soluzione finale a lieto fine. Solitamente nei libri di testo per l'infanzia si predilige la seconda soluzione adottando la frase storica e vissero felici e contenti. Prendendo in esame quel libro, appunto, mi sono resa conto che le figure femminili avevano ruoli standardizzati che le dipingevano o come semplici personaggi o come cattive, streghe, fattucchiere e via dicendo. Comunque mai come eroine. E anche nel caso in cui sono state individuate come protagoniste, quindi ricordo, il protagonista è il personaggio principale di cui si narra la storia, il loro destino si risolve sempre nel convolare a giuste nozze con l'eroe. Forse per un debito di riconoscenza? O forse perché deve essere chiaro alle bambine che il fine ultimo della vita o del destino delle donne è quello di essere sempre l'appendice del maschio? E che dire poi della religione di Stato che viene sistematicamente imposta a tutti come materia di insegnamento? Anche la possibilità che viene data di esonero è comunque una discriminazione nei confronti di chi, sin dall'infanzia, è costretto, suo malgrado, a differenziarsi dalla maggioranza. E allora, al di là del revisionismo storico di Storace, occorrerebbe sì una rilettura critica di tutti i libri di testo, a partire da quelli destinati all'infanzia. Questi producono infatti una stereotipia culturale che non consente la formazione di un pensiero critico in grado di elaborare diverse possibilità di scelta. Come dicevo prima, io sono un insegnante e allora permettetemi di dire ancora alcune parole sulla scuola. La scuola spesso è stata e viene ancora oggi accusata d'essere troppo distante dal mondo del lavoro. Continuare a leggerla in questo modo significa alimentare il crescente malessere culturale, il quale risulta diventare una delle cause del disagio esistenziale dei nostri tempi. Purtroppo lo smarrimento di senso oggi si manifesta nei giovani in comportamenti di rinuncia, forme di ritualismo, ribellione, violenza, sfiducia, autoritarismo, e ne sono conferma quotidianamente le cronache. Queste manifestazioni rendono evidente il processo in atto di scissione tra individuo e struttura sociale. Il singolo individuo è portato a pensarsi come unico e solo possibile responsabile di una trasformazione legata, il più delle volte, ad un proprio interesse contingente. C'è così tanta esaltazione dell'individualismo che il vecchio e caro bene comune non solo non viene preso in considerazione come obiettivo possibile, ma diventa addirittura assolutamente incomprensibile. La storia, quella con la S maiuscola, si oscura, si riscrive, si stravolge. Le scelte possibili diventano indifferenza. I valori, quali la condivisione, sembrano non avere più fondamenti oggettivi di nessun tipo. Elemento determinante diventa la normalizzazione, spesso spacciata per normalità. Uniti si vince, tutti insieme siamo forti, sono frasi ricorrenti che denotano un bisogno indistinto di omologazione terrificante. C'è la negazione e la conseguente discriminazione delle minoranze. L'influenza dei mass media nell'orientamento ai valori della gioventù di oggi ha portato a rendere priva di senso la concezione che la diversità è ricchezza. Nell'odierna civiltà del benessere, uno solo è il valore dominante, il successo. Tale valore, immediatamente percettibile in termini di denaro, diventa il principale bene da ricercare. Ed eccolo il grande manifesto di colui che ritiene il denaro l'elemento fondante nella vita dei giovani. Berlusconi. Berlusconi e la sua scuola, quella che funziona davvero, quella con le tre I, inglese, internet, impresa. Ma sì, e a che serve studiare Dante? E il docente? Generalmente è al docente che spetta il compito di controllare la riproduzione culturale, la qualità e il corretto avvicinamento del giovane ai valori esistenti, insomma. Il docente, in quanto adulto ed esperto, ha, attraverso la scuola, la responsabilità di provvedere alla crescita globale degli studenti. E non serve tentare di riscrivere la scuola, caro Storace. Non tentare, caro Berlusconi, di trasformare la scuola in un'azienda. Non tentate, cari sindacati confederali, di svendere la scuola per poche lire. Permettetemi un modo di orgoglio nel rivendicare il mio essere insegnante. È di pochi giorni fa l'accordo tra governo e sindacati confederati per il rinnovo del contratto. Forse non tutti sanno che qualche giorno prima della sigla di questo accordo era stato abbandonato il tavolo delle trattative perché, tra l'altro, si proponeva un aumento di 286.000 lire, lorde chiaramente, al mese. I confederali sono usciti sbattendo la porta e hanno aderito allo sciopero generale indetto dai sindacati di base. Il 14 e il 15 dicembre ci sono state le elezioni dell'RSU e il 16 dicembre, sempre i confederali, firmano un accordo con il governo accettando un aumento lordo di 300.000 lire al mese. È mai possibile pensare che bastava veramente aumentare la cifra di sole 14.000 lire, sempre lorde chiaramente, per tacitare l'intera categoria? Ma dove siamo? E allora benvengano i giovani che, con i caschi in testa, difendono e rivendicano il loro essere altro. Io spero e mi auguro che dalle mie classi escano soggetti pensanti, in grado di scegliere. E allora eccoci arrivati al nostro appuntamento di musica lesbica indipendente. Quello che vi proponiamo è un brano fresco fresco di una lesbica e viene dal Canada. Lei si chiama Sue Denim e il brano è Lovely Is Your Name, che tra l'altro è la colonna sonora di uno degli short, dei cortometraggi che avevano trasmessi ad Immaginario il Festival del Cinema Lesbico quest'anno. Anzi, in realtà lo short è proprio il clip divertentissimo di questo brano. Minutes to wash the stains, 30 to watch the gli appuntamenti. La Gaia Mater Studiolum, associazione di giovani gay e lesbiche dell'Università di Bologna, organizza anche nel 2001 degli incontri chiamati Identità e Confronto, con l'obiettivo di stimolare il confronto fra tutti, quelle e quei, giovani che si rivolgono alla loro associazione per permettere loro di integrarsi meglio nel gruppo e per incentivare la discussione su temi legati all'omosessualità. Tutti gli incontri si tengono nella sede dell'associazione, in via delle Belle Arti 19A a Bologna alle ore 22. Le date ed i temi delle serate al momento previste sono il 15 gennaio il rapporto con i genitori, il 22 gennaio il rapporto con il resto della famiglia, il 29 gennaio la prima volta, il 5 febbraio genitori e figli, incontro con la GEDO, associazione genitori e amici di omosessuali. Il 5 marzo, essere omosessuale a scuola e nell'università. Il 12 marzo, omosessualità e politica. Il 19 marzo, la frontiera che abbatte le frontiere, internet per conoscersi. Il 26 marzo, l'impegno, incontro con una politico-politica ed una insegnante omosessuali. Il 2 aprile, i luoghi di incontro per persone omosessuali. Il 9 aprile, storia maestra di vita. Incontro con i primi militanti del movimento omosessuale italiano. Il 7 maggio la coppia omosessuale, il 14 maggio la bisessualità, il 21 maggio stile di vita e stereotipi dell'omosessualità, il 28 maggio se la coppia non scoppia, incontro con due coppie omosessuali stabili per capirne il segreto. Pensando no vazio que você deixou, acordei e fiz uma canção. Pra mim. Nonostante il riflusso politico, dopo le notizie date durante le nostre ultime trasmissioni sulla nascita di gruppi lesbici in Sardegna, siamo liete di annunciarvi la nascita di un gruppo lesbico genovese, Le Bisce d'Acqua. Attualmente non hanno una sede propria e vengono ospitate nei locali del Baghdad Caffè, organizzando incontri al femminile tutti i primi sabato del mese. Affermano che il loro gruppo nasce dall'esigenza di avere uno spazio dove le donne, lesbiche in particolare, possano discutere, divertirsi, esibirsi in chiave prettamente femminile, senza dover condividere forzatamente con gli uomini, anche se gay, i loro spazi e il loro mondo. Possono essere contattate all'indirizzo di email rosegardenkd@yahoo.it. Come sicuramente avete saputo dalla stampa, uno dei peggiori risultati dell'attività della nuova amministrazione comunale fascista a Bologna è stato l'assegnazione, ricca di punti oscuri e di sospetto clientelismo, della storica sede di Via dei Poeti 4, della Casa delle Donne per non subire violenza, ad un'altra associazione, avente scopi e modalità del tutto diversi dall'aiutare le donne maltrattate da mariti e compagni violenti e dall'agevolare il reinserimento di donne che riescono ad uscire dal giro della prostituzione. La nuova sede della Casa delle Donne per non subire violenza è Vicolo Borchetta 6, 40 125 Bologna, telefono 051 26 57 00, fax 051 261 765, email casadonn@orlando.women.it. Per aiutare la Casa delle Donne per non subire violenza, privata di qualsiasi finanziamento da parte del Comune di Bologna, è possibile effettuare donazione alla Carisbo al CAB 2401 ABI 6385, conto corrente 51793/1. Ricordando che il primo nel mondo a sancire l'abolizione della condanna a morte il 30 novembre 1786 fu il Granduca Pietro Leopoldo di Toscana, Arcigay Nazionale sarà socio fondatore della Fondazione Internazionale contro la Pena di Morte Rocco Derek Bernabei, che avrà sede a Siena. Insieme ad altre associazioni culturali, sindacali e di volontariato come ACLI, Azione Cattolica, CGL, CISL, UIL, Centro Culturale delle Donne Mara Meoni, La Città dell'Ulivo, Mondo Senza Frontiere, Pubblica Assistenza, Misericordia, Associazioni per la Scuola che Vogliamo, Sinistra Giovanile, Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, Arcigay è membro del coordinamento contro la pena di morte. Tá dentro, dentro do coração. Foto viva, viva. E ora Scancanensi. Editore, raccontami ancora, quarta elementare, corso di letture e di educazione linguistica per il secondo ciclo, edizione 1998. L'indice del libro è variegato e diviso in sezioni. Le letture vere e proprie, le riflessioni sulla lingua, gli esercizi grammaticali, la storia della lingua italiana. Scorro l'indice degli autori, sono circa 80. Ad occhio riconosco solo due donne, Emily Dickinson ed Isabella Allende. Gli editori si saranno sforzati di eliminarle, ma proprio non ci sono riusciti. Sono delle grandi, forzatamente accettate anche dalla cultura patriarcale. Gli altri 78 sono prevalentemente degli sconosciuti, però sono maschi. Sicuramente avevano qualcosa di importante da dire. Scorro tutte le pagine del libro e subito mi sembrerebbe più coerente rifare l'indice degli argomenti in questo modo. Capitolo 1. Sessismo. Capitolo 2. Violenza. Capitolo 3. Razzismo. Capitolo 4. Occidentalismo. Capitolo 1. Sessismo. È un capitolo facile ed ovviamente si articola per tutte le 222 pagine del libro. Inizia subito a pagina 1. Illustrazione a colori. Una donna con un grembiule da cucina. Un tavolo pieno di verdure da tagliare. Alcune pentole sul fuoco. Il testo inizia così. Mentre la mamma sta cucinando, i due fratellini giocano in giardino. Si commenta da solo. Più sottile, ma assolutamente lampante ai miei occhi, è la successiva articolazione del capitolo. Ogni brano di lettura contiene un eroe maschio ed una vittima, femmina, che ha come unica funzione dimostrare quanto è eroe l'eroe. Tra i brani, tante favole. Le ricordate? C'è bisogno di particolari commenti? Da piccole, avete avuto altra scelta se non immedesimarvi nella principessa sfigatissima, ovvero vittima di incantesimi e di malvagità di streghe, donne ovviamente, o semplicemente in attesa di lui. Sì, lui, il principe bellissimo e forte, che vi libera da tutto e vi ricompensa con il sogno più bello del mondo, sposarlo. Ma, in realtà, a mio parere, la sfiga della principessa iniziava proprio in quel momento, ed invece del vissero felici e contenti, le favole potevano concludersi con un «si stava meglio quando si stava peggio», con la principessa che torna in cerca della strega, pregandola di rendere perpetuo l'incantesimo. E che dire dei cenni storici e letterali? Come potrebbe mai emergere l'attività culturale delle donne se il testo principale dal quale il libro trae questi cenni è Vita degli uomini illustri di Campanile. Dico io, ma almeno fate finta. Capitolo 2. Violenza. Pagina 22. Il brano si intitola Carletto Carpentiere. C'è Carletto che si incammina per liberare una principessa. Sì, la solita sfigata, ma questo fa parte del capitolo 1. Incontra un vecchio che per dirgli la mappa del posto ove è detenuta o forse si rifugia la principessa, lo sottopone a 3 prove. Uccidere una volpe e strappargli il cuore per dimostrare la sua intelligenza. Uccidere un orso a coltellate per dimostrare la sua forza. E saltare uno strapiombo per dimostrare il suo coraggio. Dico io, ma può un vecchio istigare così impunemente un bambino alla violenza? E se Carletto voleva dimostrare la sua intelligenza aiutando l'umanità, la sua forza, evitando di usarla, ed il suo coraggio mandando a fare in culo il vecchio? A me strappare il cuore ad una volpe ed uccidere un orso a coltellate mi sembra solo crudele, e saltare uno strapiombo mi sembra stupido. Ma questo è solo un esempio. Nel 1998, data di pubblicazione del libro, si insegna ancora ai bambini maschi che per essere adeguati bisogna essere cattivi e crudeli e che la forza fisica è il paradigma al quale tutta la loro vita si deve ispirare. Capitolo 3. Razzismo. Pagina 50. Lo scopo è insegnare ai bambini a scrivere una lettera. I personaggi sono illustrati con dei disegni e sono una bimba bianca, presumibilmente italiana, ed un bimbo nero dello Zimbabwe. C'è un botta e risposta tra i piccoli via lettera e ad un certo punto il bambino chiede innocentemente: «Se non sai che faccia ho, come fai a sognarmi?» La bimba risponde: «Tu hai la faccia nera come un budino al cioccolato, vero?» «Un budino? Ma come un budino? Avete mai visto un nero che sembra un budino?» Nelle classi delle nostre scuole ormai ci sono tantissimi bambini neri. Ma pensate come devono sentirsi leggendo questo brano? E se uno di questi prende un budino vero e lo spalma sulla faccia della maestra, lo chiamiamo disadattato? Capitolo 4. Occidentalismo. Questo capitolo è il più subdolo e nello stesso tempo il più palese di tutti. Scorro tutte le pagine del libro ed in tutti gli esempi didattici e di racconti non vi è mai cenno a culture diverse da quelle europee. Peggio, non vi è nemmeno una illustrazione o una fotografia che raffiguri un bambino o una bambina di una razza diversa da quella bianca. Fanno eccezione un brano sugli orsi polari, dove il fatto che siano rappresentati due eschimesi si capisce solo dai vestiti che portano, dal ghiaccio e dall'iglu in secondo piano. I tratti somatici sono bianchi, anche se direi che proprio non si possa negare quanto sia diversa la morfologia facciale degli eschimesi. Un'altra eccezione è la foto in cui si intravede un bambino nero insieme ad un bambino bianco in primo piano. Ma sentite il brano della poesia che accompagna la foto. Non sono un negro, non sono un rosso, non sono un giallo, né un bianco. Come un negro? Ma questo termine non era stato abolito negli anni 70 perché dichiarato altamente discriminatorio dal movimento dei neri? Cosa ci fa in un libro del 1998? Ah, scusate, un'altra eccezione è la faccia da budino che abbiamo visto nel capitolo precedente. Insomma, tornando ad essere serie, per i bambini extracomunitari in quarta elementare vi è ancora un gravissimo problema di rappresentazione. E figuratevi come ne esce danneggiata la loro autorappresentazione, risultando completamente assenti dai libri di testo che sono costretti ad utilizzare. Del resto noi lesbiche potremmo parlarvi a lungo di mancanza di rappresentazione e della conseguente difficoltà di autorappresentarsi. E di bambini bianchi? Come possono arrivare ad accettare le differenze se vengono educati alla cultura della negazione? In realtà, più sfoglio il libro e più individuo nuovi capitoli come capitalismo, colonialismo, eterosessismo, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto fuso in racconti e storielle apparentemente innocui. In realtà non dobbiamo meravigliarci se i bambini sembrano gli esseri umani più spietati, perché nella loro innocenza sono i primi a discriminare i diversi, che siano omosessuali, differentemente dotati, di razze diverse o altro. I bambini sono in maniera trasparente quello che saranno da grandi, forgiati da una cultura millenaria, patriarcale, che sottolinea le differenze solo per dare contenuto al concetto di normalità. In tenera età ci sembrano spietati solo perché sono semplicemente privi di tutti quei condizionamenti sociali che da grandi li portano ad evitare atteggiamenti diretti di violenza, esclusivamente perché ne comprendono le conseguenze su se stessi. Se ammazzo, vado in galera. Forse. Il problema è che la negazione delle differenze continua a permearli durante tutta la loro vita, e quando per qualche motivo cadono, seppure per un attimo, quei condizionamenti sociali, non esitano a stuprare ed uccidere, perché in fondo nessuno gli ha veramente insegnato che è sbagliato, anzi, tutt'altro. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.